vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 18 febbraio, il sole in regione è sorto alle 7.06 e tramonterà alle 17.37. Sabato ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. È nata per fusione la nuova cantina sociale di Conegliano, Vittorio Veneto e Casa Arsa, un colosso vitivinicolo a nord-est. Tempo di quaresima e mangiar di magro, o meglio di digiuno, ma la terra ha sempre garantito qualche soluzione per non andare a dormire con lo stomaco vuoto. Quali piante scegliere per il nostro frutteto amatoriale oggi? Consigli in fatto di meli. Nella gran varietà di vini disponibili ci sono anche quelli aromatizzati. Oggi nella rubrica dei sommelier di scena il vermouth. Come conservare correttamente le uova a casa? Una serie di consigli per una materia piuttosto delicata. La sua storia mitologica lo ha fatto battezzare quale fiore del vento. È l'anemone che oggi descriviamo in una scheda con i consigli per l'allevamento. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Sta nascendo, anzi è meglio dire è nata, la cantina Conegliano Vittorio Veneto e Casa Arsa, nient'altro che la fusione delle due più importanti realtà vitivinicole del nord-est. Una cantina appunto che gli aficionados chiamano già la cantina del nord-est. Quali numeri, quali programmi, le prospettive per questa nuova realtà? Lo chiediamo a Mirko Bellini, che è il direttore generale della Cantina della Delizia. Numeri importanti, credo, perché dal punto di vista della produzione quantitativa è una cantina che può girare attorno ai 900.000, un milione di quintali d'uva. Trasformati si parla più di 100 milioni di bottiglie. L'importanza di un blocco di 5.500 ettari con 1.600 soci che come primo obiettivo ha il consolidamento del lavoro fatto fino ad ora delle due cantine e una crescita per quello che è il territorio rappresentato dall'area del Prosecco e dall'area del Pino Grigio, che sono le due componenti, due vitigni principali di questa cantina. La fusione anche di due saperi, uno commerciale e uno produttivo. Sì, due filiere diverse che si incontrano, la Conegliano Vittorio Veneto, un'azienda che fino ad oggi ha lavorato nella prima parte della filiera, dalla terra al prodotto al vino trasformato, dando anche grandi soddisfazioni con una crescita importante negli ultimi anni, sono arrivati più di 600.000 quintali d'uva, con una soddisfazione importante per i loro associati. Il sapere della cantina di Casa Arsa notoriamente legata soprattutto alla parte commerciale. Cantina di Casa Arsa è una cantina da 300.000 quintali d'uva che però produce 20-26 milioni di bottiglie nel mondo, di cui un 45% in Italia e un 65% estero, quindi una cantina che il mercato ce l'ha in mano. Quali obiettivi raggiungere? Prima ci diceva che tutto è cambiato dopo il Covid. Come mai e perché? Beh, il Covid è stato un punto importante, ha segnato un momento di cambiamento fondamentale per i sistemi economici e per i sistemi commerciali. Detto in gergo, chi ne aveva il giorno dopo del Covid è partito, le aziende hanno iniziato a lavorare molto velocemente perché c'è stato un ritmo molto alto. Le aziende lì si sono trovate, chi aveva forza a correre, chi non aveva rimasta un po' indietro. E il mercato ha iniziato a dettare dei ritmi molto molto forti. La nostra esigenza era quella di crescere, il mercato ci ha permesso di crescere, non riuscivamo però a stare indietro alla crescita che il mercato voleva. Avevamo bisogno di materia prima da un lato e di capacità produttiva in senso di imbottigliamento. Da qui l'unione con Conegliano e Vittorio Veneto, che aveva la disponibilità di volumi, ma soprattutto una capacità di imbottigliamento, loro lavoravano solo per conto terzi, che fra tutte e due le cantine ci permette di fare 500.000 bottiglie al giorno. Il consumatore vedrà nuove etichette? Come potrà distinguervi? Il consumatore non vedrà nuove etichette, vedrà i marchi che erano quelli della Delizia, perché la Conegliano Vittorio Veneto non era presente diretta sul mercato. Vedrà all'interno del nostro marchio principale, che è il marchio Naonis, che forse oggi è il primo, quello più distribuito nel canale Horeca a livello Italia, l'inserimento del DOCG. Quindi un'arma in più, perché la Conegliano Vittorio Veneto rappresenta, mi pare, il 20% del volume della zona DOCG. Quindi andiamo ad integrare ed ampliare Italia-Estero i nostri marchi. La terra, che è sempre stata madre e mai matrigna, sapeva offrire moltissimi spunti di consolazione, almeno per non andare a dormire con lo stomaco vuoto, scrive così Angelo Floramo in materia di digiuni quaresimali. Tempo di magro. Finito il rito selvaggio del carnevale, con i suoi balli e i discanti osceni, dal sapore squisitamente pagano, nonché ultima illusione di abbondanza, quella che raschiava il fondo di ogni riserva alimentare, la civiltà contadina si preparava al lungo tempo della purificazione. Per chi è abituato a mangiare poco, l'astinenza della carne, ma quando mai la si imbandiva sulle mense del povero, e il digiuno, previsto dai rigori del precetto quadragesimale, sicuramente non dovevano sembrare troppo pesanti. Come a dire, se i ricchi, curiali, nobili o borghesi che fossero, potevano fare quaresima in maniera ipocrita, ingozzandosi di storioni e di salmoni, di cefali, anguille, sardelle e sardoni, i pitocchi e i poveri lazzari, i contadini sottani, sempre lontani dall'essere ricchi e puloni, potevano in compenso fare affidamento su quella sapienza tutta francescana che suggerisce mille modi per cavarsela dignitosamente e con poco. La topografia agraria dei tanti piccoli borghi colonici disseminati nella campagna, spesso di antichissima matrice, tale da affondare nei secoli del millennio medievale, prevedeva infatti che orti, baiarzi e broili sorgessero fra le case, nell'abbraccio stesso delle mura del villaggio, in una meravigliosa commistione di colture che lasciano ancora oggi immaginare i colori, i profumi, i sapori, capaci di mescolarsi insieme, restituendo percezioni e sinestesie di cui abbiamo ormai perduto memoria. Lì, certamente la terra, che è sempre stata madre e mai matrigna, sapeva offrire moltissimi spunti di consolazione, almeno per non andare a dormire con lo stomaco vuoto, dovendo poi contrastare con il sonno i crampi della fame. Così, tra le tante possibili soluzioni, la consuetudine di maritare i pochi filari di uva dell'orto con la verza alta, assai diffusa nelle nostre contrade, ispirava alla santa scugne, la santa necessità dei poveri, un connubio particolarmente significativo e proficuo sotto il profilo economico, sociologico, alimentare e culturale delle nostre genti. E così le cimole, ovvero le foglie più tenere e gentili delle verze alte, e assieme a loro la minestra di verze, si tramutavano in altrettante benedizioni speciali, pensate da Dio solo per loro, allo stesso modo in cui il Padre Eterno aveva escogitato la manna per i figli di Abramo, sotto la guida di Mosè, nell'attraversamento del deserto, prima di arrivare alla terra promessa. Che altro dire? Cosa aggiungere? Mangià e morì, mangiare e morire, tertium non datur. Come districarsi nel diluvio di mele e meli disponibili sul mercato? Oggi, per quanto riguarda quelle autoctone o semi-autoctone, ci dà una mano il professor Raffaele Testolin. Ho avuto modo di studiare per alcuni anni ben 135 varietà di mele friulane. Una dozzina di queste varietà sono certamente interessanti. Le altre sono varietà che mi sentirei di consigliare solamente a persone a cui voglio male data la qualità scadente. Di questa dozzina, che l'ERSA ha cominciato a moltiplicare per gli amatori, ricordo, in ordine di epoca di maturazione, la varietà San Giacomo, che fa parte del gruppo dei bianconi, Weisser Klarapfel per gli austriaci, una varietà precoce, succosa, dissetante e poco di più, ma viene in un momento in cui non ci sono altre mele interessanti. Non c'è altro di interessante fino all'autunno, quando maturano due mele che a me piacciono particolarmente. Sono dal Dolce e lo Striato Dolce. Dal Dolce è la vecchia Cox Orange Pippin. Entrambe sono croccanti e dolci, sicuramente interessanti. Per chi ama le mele ruggini, ricordo la ruggine di Enemonzo e la Rusin d'Unvier. La ruggine di Enemonzo è la famosa Bella di Boskoop, diffusa un tempo in tutta Europa. Io preferisco la Rusin d'Unvier. Sono mele interessanti da mangiare cotte o per realizzare gli strudel di mele o gli strucchi. Ricordo infine la Zeuca o Seuca delle valli del Natisone, una mela invernale, soda, croccante, poco dolce, la più autoctona delle mele friulane. È conosciuta in giro per il Friuli anche con molti altri nomi. Voglio ricordare, per chi ha la filosofia autoctoni o morte, che di veramente autoctono c'è solo la zeuca. Tutte le altre varietà sono autoctone di Britule, come ho avuto modo di dire in altre puntate. Si tratta cioè di mele coltivate in mezza Europa e passate di mano in mano tra estimatori, ma questo può suonare solo come un elogio ai migranti friulani che hanno portato nella loro terra varietà osservate e apprezzate in altri paesi. Per concludere, ricordo che ogni anno vengono valutati circa 200.000 incroci di melo in oltre 20 paesi del mondo e ogni tanto qualcosa di buono viene fuori. I negozi sono fissati con le 5-6 varietà tradizionali, ma se trovate varietà come Ambrosia, Rubens, Inored, Envy, Sweet Tango, Enjoy e altre con nomi diversi dalle solite Gala, Golden, Delicious Rosse, Fuji, provatele. Oggi Vladimiro Tulisso, per la rubrica dei sommelier, ci parla di un vino aromatizzato, dei vini aromatizzati che qualcuno passa anche sotto il nome di vermouth. Ci sono i vini in purezza, dove il vitigno base deve essere presente per almeno l'85%, poi i vini assemblati, ovvero frutto della fusione di più varietà, dove le percentuali vengono decise dai vignaioli, e infine ci sono anche i vini aromatizzati. La legge italiana definisce vino aromatizzato un prodotto composto almeno al 75% da vino, fortificato con l'aggiunta di alcol per portarlo a 17 gradi, e poi aromatizzato con un'infusione alcolica composta da erbe e droghe. Quando tra le erbe c'è l'artemisia, nella varietà pontica e absinthium, si può parlare di vermouth. È proprio l'artemisia, della quale vengono utilizzate le punte fiorite ed essiccate, a caratterizzare la ricetta del vermouth. Fino agli inizi del Novecento, di questa bevanda esisteva una sola varietà di colore, il dorato carico tendente all'ambrato. Fu allora, nel 1912, che venne lanciata sul mercato anche la versione bianca, caratterizzata dalla presenza di petali di rosa e fiori di sambuco. Negli anni successivi il vermouth è diventato anche rosso, più amaro e complesso, grazie all'aggiunta di spezie scure, legni e cortecce. Da qualche anno anche in Friuli si è iniziato a produrre vermouth agricolo, ovvero all'interno della stessa azienda che produce il vino. La prima a produrlo, agli inizi del 2000, è stata un'azienda del Collio, unendo il proprio vino a base di Tokai, Malvasia Istriana e Pinot Bianco con l'Assenzio Marino, il Sant'Onego, che cresce nella laguna di Grado. La varietà di Assenzio della laguna ha una forte sapidità e si sposa con le caratteristiche organolettiche del vino. Viene prodotta anche un interessante vermouth rosso su base di vino pignolo. Diverse le categorie di prodotti nella famiglia del vermouth. Non possiamo decidere se ci piace o non ci piace se non le abbiamo prima assaggiate. Il vermouth quindi si divide per colore: bianco, ambrato, rosato o rosso, per grado zuccherino, extra secco o extra dry, meno di 30 grammi litro di zucchero, secco o dry, meno di 50 grammi litro, dolce quando lo zucchero è superiore ai 130 grammi litro. Per chi vuole degustare il vermouth alla giusta temperatura di servizio, è sufficiente ricordare di servire i bianchi e i rosati a 4-6 gradi, come il vino spumante, e i rossi a 10 gradi, come i vini bianchi. Nulla di più delicato della corretta conservazione delle uova, soprattutto sul versante igienico, come ci ricorda oggi Michela Urbano. Se al famoso dilemma «è nato prima l'uovo o la gallina?» non posso dare risposta certa, per la domanda «le uova vanno conservate in frigorifero oppure no?» ho qualche risposta concreta. Per fare chiarezza, dobbiamo considerare che la legislazione italiana vieta ai produttori di lavare o pulire le uova di categoria A perché, recita il testo, simili pratiche possono danneggiare il guscio che possiede una serie di proprietà antimicrobiche e costituisce un'efficace barriera contro le contaminazioni batteriche. Le normative indicano anche che dopo la deposizione e prima della vendita non devono subire alcun trattamento di conservazione e devono essere conservate ad una temperatura più costante possibile, per evitare che fenomeni di condensa possano depositarsi sulla superficie dell'uovo, aumentando in tal modo il rischio per i consumatori. Ecco dunque che le uova stoccate nei punti vendita a temperatura ambiente scongiurano la proliferazione dei batteri, salmonella compresa, fino all'atto della vendita. Arrivati a casa, però, vanno conservate con le stesse modalità oppure è opportuno riporle in frigorifero per rallentarne l'invecchiamento? Gli scienziati del West Yorkshire Food Test Laboratory, dopo una serie di analisi, giunsero alla conclusione che con le opportune attenzioni sopracitate, tutte le uova erano perfettamente sane, a prescindere da dove fossero state conservate, dentro oppure fuori dal frigorifero. Fatto dunque chiarezza sull'argomento e lasciando a voi libero arbitrio sulla conservazione domestica, mi preme ricordarvi che le uova rimangono un alimento sporco in quanto non sanificabile. Pertanto, qualora decidiate di conservarle in frigorifero, accertatevi che vengano riposte in un contenitore che possa isolarle ulteriormente dal contatto con altri cibi. Ricordiamoci che la salmonella è un problema serio, pertanto la cottura di questo alimento è altrettanto importante. È essenziale infatti che le uova e i prodotti che le contengono siano cotti fino al raggiungimento al cuore di almeno 75 gradi centigradi. Vi invito dunque a pastorizzare sempre le uova nelle ricette, in cui è previsto l'utilizzo a crudo, maionese e tiramisù in primis. Diffidate del si è sempre fatto così. Basta acquistare un termometro dal costo irrisorio e affidarci a ricette che prevedono la pastorizzazione delle uova. Anemone, il fiore del vento, titola così oggi Alessandro Spizzato il suo contributo per la rubrica dei fiori. L'anemone coronaria è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle ranunculacee. Proprio come il ranuncolo, questa pianta si sviluppa da un bulbo. I suoi fiori eleganti, singoli o doppi, possono essere rossi, bianchi, rosa, viola, blu o bicolori e sono capaci di donare vivacità a un balcone o a un'aiuola, offrendo un potente impatto scenografico durante la primavera. Cresce su qualsiasi tipo di terreno, raggiungendo un'altezza di circa 20-25 cm. L'anemone è una pianta rustica e non ha bisogno di particolari cure per crescere. Ma poniamo comunque attenzione ad alcuni aspetti. Come abbiamo indicato sopra, può essere allevato sia in piena terra sia in vaso. In quest'ultimo caso scegliamo un vaso capiente e alto, adatto a far sviluppare il bulbo della pianta. Il terreno deve essere ben drenato, umido e ricco, preferibilmente acido. Posizioniamolo, possibilmente, a mezz'ombra, soprattutto se viviamo in zone calde, in cui il sole intenso creerebbe forti ustioni alle foglie. In inverno poniamo attenzione alle gelate, interveniamo pacciamando il terreno o usando del tessuto non tessuto per evitare che la pianta si scotti con il troppo freddo. Ha bisogno di poca acqua nelle stagioni più fresche, mentre in estate la frequenza di irrigazione sarà di 3 o 4 bagnature a settimana. Durante la ripresa vegetativa, ovvero da febbraio a maggio, forniamo settimanalmente un concime per piante da fiori nell'acqua di annaffiatura, per aiutare la pianta a svilupparsi al meglio e a fiorire copiosamente. Puliamo le parti danneggiate e secche e gli steli floreali sfioriti. Si riproduce per autosemina o per divisione del bulbo. Il nome anemone deriva dall'antica mitologia greca. Anemone era una ninfa di cui si innamorò Zefiro, il dio dei venti, e che fu trasformata in fiore dalla moglie gelosa. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia. Mercato debole, con prezzi in diminuzione venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 18,80 e 19 euro al quintale, va esclusa il frumento, tra 20 e 50, 21 euro. L'orzo, peso specifico 62-65, tra 19-19,50 e la soia tra 43,10-43,70. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 10,50 euro il quintale e la soia di 10,30. Fiacche le contrattazioni all'ottro frutticolo di Udine con prezzi moderatamente in ribasso. L'insalata gentile, la lattuga trocadero e i finocchi vengono quotati da 1,20 a 1,50 euro il chilo IVA esclusa. La scarola riccia e gli spinaci da 2,80 a 3 euro. I cavoli da 1,30 a 1,60. Il radicchio rosso tondo e quello di Treviso precoce da 1,60 a 2 euro. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo precarie, l'attività in leggera flessione e di conseguenza i prezzi sono in aumento. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono da 16 a 30 euro il chilo IVA esclusa, le orate da 7 a 18, le sogliole da 7 a 24, i rombi da 25 a 35, le canoce da 5 a 15, le passere da 10 a 14, i palombi da 7 a 15, le capesante da 19 a 22, le seppie da 6 a 11, i calamari da 15 a 20 e i moscardini o folpi da 7 a 15 euro il chilo. Nel settore dei prodotti caseari la Commissione Camerale di Pordenone e Udine ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 47,50 e 50,50 centesimi il litro più premi di qualità e IVA. Nel settore dei foraggi, per abbondanza di prodotto e l'immobilità della domanda, i prezzi ristagnano e l'erba medica di prima qualità viene quotata tra 13 e 14 euro il quintale, IVA esclusa. Il fieno mazzengo di pianura si paga tra 8 e 9 euro e la paglia di cereali pressata si quota fra 7 e 9 euro il quintale. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. Negli ultimi giorni correnti da nord-ovest hanno portato stabilità e zero termico a 3.000 metri circa. Le temperature massime in pianura sono salite ben oltre i 15 gradi. Sul mare abbiamo avuto la saltuaria formazione di uno strato di nebbia piuttosto sottile a pelo dell'acqua, ma la nebbia ha interessato anche la pianura, specie venerdì sera. Ora stanno giungendo sulla regione masse d'aria più umida, sia nei bassi strati che in quota, in particolare oggi. Domani avremo cielo in genere variabile, non è esclusa qualche debole precipitazione locale, specie in montagna e sulla fascia orientale, dalla sera possibili foschie dense o nebbie su basse pianure costa. Martedì giungeranno correnti più secche e il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Di notte sarà possibile ancora un po' di nebbia, mentre al mattino sulla costa soffierà borino. In pianura le temperature massime saranno miti per il periodo, mentre le minime torneranno vicino allo zero. Mercoledì avremo cielo da poco nuvoloso a variabile, con maggiore nuvolosità per nubi in quota dal pomeriggio sera. In pianura le temperature massime saranno ancora attorno ai 15-16 gradi. Lo zero termico sarà a 1700 metri circa. Giovedì una seccatura atlantica inizierà ad avvicinarsi all'Italia. Cominceranno ad affluire correnti sud-occidentali più umide e dal pomeriggio inizieranno le prime piogge. Da venerdì a sabato mattina un fronte porterà cielo coperto, con precipitazioni intense in montagna, abbondanti in pianura, nevicate abbondanti sui 1200 metri circa, localmente a quote più basse. Sulla costa soffierà scirocco moderato. Poi avremo variabilità, ma anche domenica saranno possibili altre precipitazioni, in genere deboli e moderate. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Quaresima vignis naela dormi, ovvero quando arriva la quaresima cenare e poi andare a dormire, non c'è tempo per altro. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.